100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. C'è alta tensione tra Roma e Bruxelles. Al centro della disputa ci sono ancora le vicende bancarie italiane legate alla ristrutturazione delle quattro banche regionali, e cioè Banca Marche, Banca Etruria, Cariferrara e Carichieti. A creare turbolenza sono le modalità scelte per salvare queste banche, modalità che, come sappiamo, hanno penalizzato fortemente i risparmiatori, gli azionisti, ma anche i possessori di obbligazioni subordinate che di fatto hanno perso i propri investimenti. Il governo ora sta cercando di tutelare una parte di questi risparmiatori, almeno quelli più deboli, quelli che hanno comprato questi prodotti finanziari senza sapere bene quale rischio stavano effettivamente correndo. Ma la polemica riguarda anche il fatto che il governo italiano, per salvare le quattro banche, non ha utilizzato il fondo interbancario per la tutela dei depositi, con maggiore tutela per i risparmiatori. Il motivo, questa è la spiegazione che viene data dal governo, è che in questo caso la Commissione europea avrebbe qualificato l'operazione come aiuti di Stato vietati dalle norme comunitarie. In effetti, proprio ieri la Commissione UE ha chiarito, in relazione al salvataggio di un altro piccolo istituto di credito, Banca Tercas, salvataggio fatto utilizzando il fondo di tutela dei depositi, che ciò è possibile, ma non se l'operazione è imposta dal governo, perché in questo caso l'intervento sarebbe equiparato a un aiuto di Stato. Tutto bene, ma resta il problema di spiegarlo a quelli che hanno perso tutti i loro risparmi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Il tema delle pensioni, in particolare gli aspetti legati ai possibili interventi per rendere più flessibile la legge Fornero, sono stati a lungo oggetto di dibattito. Se ne è parlato molto fin dalla scorsa estate e poi via via durante tutto l'iter parlamentare della legge di stabilità. Lo stesso presidente dell'INPS, Tito Boeri, ha avanzato proposte che però finora non hanno avuto alcun seguito. In effetti, da parte di molti c'era la speranza che con la manovra potesse arrivare un percorso per correggere le regole troppo rigide della riforma Fornero. Non è stato così. Con la manovra sono arrivate solo due misure che timidamente vanno nella direzione auspicata. C'è l'estensione di un anno della cosiddetta opzione donna, ovvero la possibilità di accedere a una forma anticipata di pensionamento, accettando però il calcolo dell'assegno interamente col metodo contributivo e quindi un taglio della pensione stessa. E poi arriva una nuova forma di part-time volontario per chi è molto vicino all'età per la pensione di vecchiaia. Non è molto, come si vede, al contrario, continua l'inesorabile calendario della riforma Fornero in vigore dal 2012, che porterà dal prossimo anno un ulteriore inasprimento dei requisiti. Tutti gli uomini e le donne del settore pubblico per andare in pensione dovranno aver compiuto 66 anni e 7 mesi, uno in meno, 66 anni e 7 mesi per le donne del settore privato. In pratica, da gennaio per tutti serviranno 4 mesi in più per andare in pensione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.